بتعز في الوطن من اجل دمك اخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي يا صاحب العرض الغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد وتزوق طبقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بمصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المادة ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب بالله برجوع الارض ارضي تناديكم سمعوا الخدر المعادي بشد على الايادي بالايادي بساعد مع حم الموت قلبه ضابط بالصوت ورافض السكوت وصاحب علم الصوت وناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خدر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتغطى الوداع هو الابقى السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي فيتوريا زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سي فيتوريا أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي فيتوريا إحنا إلنا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني فيك أنت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض e 19:38 minuti primi dai microfoni di Radio Default continuano i nostri problemi tecnici dovuti all'incapacità di utilizzare quel poco di tecnologia che abbiamo e eccoci appunto, eccoci alla nuova puntata di Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi dalla Palestina occupata e oggi dovevamo entrare in andare in trasmissione con il primo approfondimento della seconda stagione su Sabra e Shatila, non è stato possibile e quindi rimaniamo sul GR. Ricordiamo i contatti della radio che sono www.radiodefault.it, il nostro i contatti Skype e Facebook, radio.default, con cui potrete appunto intervenire in diretta, lanciare imprecazioni, maledizioni, fare domande, telefonate e via dicendo. E quindi ricordiamo appunto ancora che siamo con il GR e mandiamo la nostra sigla. I'm siamo con gli aggiornamenti da Al-Quds, da Gerusalemme, dove sono 75 feriti e 3 arresti durante l'invasione di Al-Aqsa. Mercoledì 18 la polizia sionista ha fatto irruzione nella spianata delle moschee, sparando candelotti di gas urticante contro i palestinesi che attendevano la preghiera. Una cinquantina di persone sono rimaste ferite in seguito alla carica della celere, mentre altre 25 hanno subito un intossicamento dai gas. Le forze d'occupazione hanno anche arrestato 3 palestinesi dopo aver chiuso l'accesso alla moschea. La spianata delle moschee è stata sgomberata per permettere a un gruppo di religiosi ebrei ortodossi di celebrare la festa dei tabernacoli nel luogo di culto islamico, su cui anticamente sorgeva il tempio di Re Salomone. E passiamo alla West Bank, dove a Tubas è stato demolito un villaggio nella Valle del Giordano. All'alba del 16 settembre le forze d'occupazione hanno demolito il villaggio di Hibbet Mahul, lasciando senza casa 120 persone. La Valle del Giordano è un'area sottoposta a controllo militare civile sionista, quasi completamente dichiarata zona militare chiusa. Da anni ormai questo territorio è soggetto a una politica di progressiva ed aggressiva giudaizzazione e vede la continua espulsione dei residenti palestinesi per ampliare i 37 insediamenti illegali. E andiamo a Salfit, dove i coloni distruggono le coltivazioni per mezzo di cinghiali. Martedì 17 i contadini palestinesi di Salfit hanno accusato i coloni illegali di aver liberato dei cinghiali sulle loro terre. Gli animali hanno devastato numerosi pruni, alberi di fico, le vigne e numerosi altri appezzamenti nell'area di Wadi Shaher. Da parte sua l'entità sionista ha dichiarato di non essere in grado di controllare la popolazione dei cinghiali, anche se ha ammesso che la costruzione del muro di segregazione potrebbe aver indotto gli animali a cercare un nuovo habitat. E andiamo a Jenin, dove in migliaia partecipano al funerale di Islam Tobasi. Martedì pomeriggio migliaia di palestinesi hanno partecipato al corteo funebre di Islam Tobasi, un attivista palestinese del movimento del Jihad Islamico ucciso dalle forze di occupazione. Durante il corteo i manifestanti hanno condannato l'autorità palestinese per le attività di coordinamento con la polizia sionista e hanno chiesto a gran voce che alla resistenza venisse lasciata mano libera per difendere la popolazione della West Bank. Il corteo si è concluso con degli scontri tra i manifestanti e la polizia palestinese, mentre il funerale si è svolto senza i funzionari dell'autorità, dichiarati persone non gradite. E passiamo alla striscia di Gaza, dove è stato ferito un combattente durante gli scontri al confine. Mercoledì mattina un resistente palestinese è rimasto ferito durante gli scontri con le forze d'occupazione nel nord della striscia di Gaza. Alcuni veicoli militari e un reparto di fanteria coperti da un elicottero da guerra hanno sconfinato nella zona settentrionale della striscia, scontrandosi con alcuni resistenti appostati nell'area. L'Egitto condanna i pescatori Gazzawi. Mercoledì, un tribunale militare egiziano ha condannato 5 pescatori palestinesi a un anno di carcere per aver violato le acque territoriali. I pescatori si sono difesi dicendo di aver sconfinato per errore e hanno denunciato di essere stati vittime di un pestaggio da parte dei militari. Da luglio scorso il nuovo governo egiziano ha aumentato gli attacchi contro i pescatori della striscia di Gaza, in seguito alla nuova politica di chiusura dei confini dell'enclave costiera. E Hamas impedisce agli studenti di entrare in Egitto. Mercoledì le forze di sicurezza di Hamas hanno caricato un gruppo di circa 200 studenti che stazionavano al valico di Rafah, nella speranza di poter entrare in Egitto. Hamas ha disperso gli studenti perché hanno ottenuto il permesso di viaggio dall'ambasciata dell'autorità palestinese al Cairo. Il valico di Rafah è stato chiuso dagli egiziani a causa delle operazioni militari contro gli abitanti della penisola del Sinai e l'attraversamento è concesso solo per motivi di salute e di studio. Passiamo alle notizie dall'entità sionista, dove 100.000 beduini verranno deportati dal piano Prawer. Eli Atzmon, ex direttore dell'amministrazione dei beduini, ha dichiarato che se verrà approvato, il piano Prawer-Begin distruggerà le case di 100.000 palestinesi, ben oltre i 40.000 preventivati dal governo sionista. Atzmon ha dichiarato che le cifre sono state falsate, visto che fin dagli anni 70 circa il 30% dei beduini non vive nelle case di residenza, bensì in comunità cosiddette non riconosciute. Il piano Prawer è un piano di colonizzazione interna che prevede la demolizione dei villaggi abusivi nel deserto del Naqab, il Negev, molti dei quali sorti ben prima dell'occupazione del 48. E passiamo agli esteri, dove in Siria un attivista palestinese è stato ucciso dal regime di Damasco. Il movimento dei giovani palestinesi ha dichiarato che un suo militante è morto nelle carceri del regime siriano. Khaled Bakrawi era un giovane rifugiato nato nell'88 nel campo di Yarmouk, Damasco. Da sempre attivo per il diritto del suo popolo al ritorno e all'autodeterminazione all'interno del movimento dei giovani palestinesi e nella Jafra Foundation for Relief and Development, è stato uno dei primi ad organizzare i rifugi e le cure mediche per i profughi vittime del conflitto siriano. Nel 2011, durante la commemorazione della Naxa, era stato ferita una gamba dai proiettili dell'esercito sionista durante una manifestazione ai confini del Golan occupato. Il 19 gennaio 2013 Khaled è scomparso all'interno delle prigioni del regime baathista di Bashar al-Assad e solo dopo 8 mesi si è saputo il suo destino. E passiamo alle iniziative, infatti Roma e i Castelli incontrano la poesia palestinese. La comunità palestinese di Roma e del Lazio organizza 2 giornate di incontro con 2 poeti palestinesi, Murad al-Sudani, che presenta I segni del Narciso e il suo altro libro I desideri, e Youssef al-Mahmoud, che presenta Sulla cima di un garofano. Gli incontri si terranno a Roma martedì 24 settembre alle ore 18 presso l'ambasciata palestinese in Italia, in via Bacelli 10. Roma, e a Lanuvio mercoledì 25 alle ore 18 presso la biblioteca comunale. E si chiude così anche oggi questa puntata di Radio Cufia con le iniziative che ricordiamo sono martedì e mercoledì 24 e 25 alle 18, martedì all'ambasciata palestinese a Roma mentre mercoledì alla Biblioteca Comunale di Lanuvio con le presentazioni appunto dei due poeti palestinesi. E noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, questa volta forse si spera con l'approfondimento. Ricordiamo brevemente i contatti della radio, che sono www.radiodefault.it, mentre i nostri account Twitter e Facebook sono radio.default e radiodefault, dove potrete intervenire in diretta. Ovviamente chi gestisce questa trasmissione è l'Assemblea di Solidarietà col Popolo Palestinese dei Castelli Romani, che ha anche un blog in cui potete ascoltare, oltre alle repliche delle nostre passate registrazioni, anche potrete vedere, trovare gli archivi delle nostre iniziative, nonché numerosi articoli di approfondimento e analisi dalla Palestina occupata e sulla Palestina occupata. Sono le 19:51 minuti primi, noi vi lasciamo alla programmazione della radio e vi lasciamo alla nostra sigla, augurandovi buona libertà a tutti e a tutti, ai Castelli Romani come in Palestina.